Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Notizia che riguarda Giovanni Scattone, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, perché Giovanni Scattone sembrava dovesse tornare, gli avevano segnato una cattedra, sembrava dovesse tornare a insegnare una cattedra di psicologia. Guardate, Scattone rinuncia alla cattedra, la famiglia Russo dice siamo felici, non può insegnare ai ragazzi. Porta a porta deve occuparsi di questi casi? Assolutamente. Benissimo, anche Alberto. Noi che siamo molto molto attenti, soprattutto quando si tratta di casi delicati come questo, come ci siamo regolati? Abbiamo detto benissimo, invitiamo due persone incensurate, perché Vera Casamonica non ha mai avuto un avviso di garanzia, meno che mai il Victory, d'accordo? Quindi avevamo il doppio vantaggio, mettiamolo così, di avere le persone molto vicine a Vittorio Casamonica, cioè all'uomo del quale sono stati celebrati i funerali, ma al tempo stesso loro non erano. I casi sono due e ancora nessuno l'ha messo in relazione tra loro, però secondo me c'è un filo sottile che permette di aprire questa mattina una riflessione sia sul caso del presunto scandalo a cui è stato esposto il servizio pubblico per il fatto che Bruno Vespa abbia invitato a porta due rappresentanti incensurati del clan Casamonica, clan che comunque si è macchiato di una serie lunghissima di delitti, sopraffazioni, reati e via dicendo, e oggi sta proseguendo con grande strascico sui giornali, ormai è diventato un fatto personale tra Bruno Vespa e il sindaco di Roma, Marino, si stanno a vicenda beccando. Marino ha detto a Vespa che in realtà non è cristiano, chi è cristiano non deve seguire i suoi programmi, qualcosa del genere. Oggi Vespa gli dà del fariseo, quindi ormai siamo su un piano metafisico, ma in realtà l'oggetto del discutere è giusto dare un palcoscenico televisivo, un salottino in cui si siedono le massime istituzioni dello Stato, gli opinionisti, anche a due personaggi che in sé non hanno compiuto nulla di male, ma che sono simbolicamente rappresentativi di un'organizzazione che a tutti gli effetti può essere definita mafiosa, anche se ancora non si è aperto un processo per mafia a carico del clan Casamonica. L'altra vicenda è la vicenda lambita soltanto dalla televisione, ma comunque a che fare con l'emotività pubblica, che interessa Giovanni Scattone. Giovanni Scattone, assieme a Salvatore Ferraro, è stato condannato nel 2003 a 5 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio colposo aggravato. È il caso Marta Russo, una studentessa che è stata uccisa con un colpo di pistola a Roma, e loro sono stati indicati come responsabili. Giovanni Scattone, che già insegnava da qualche anno, ha fatto il regolare concorso, è diventato professore a tutti gli effetti, e quando è passata la notizia che era professore a tutti gli effetti si è alzato un coro di proteste, dice come Scattone, che insegna psicologia, una persona che si è macchiata di un delitto. È intervenuto anche il ministro della scuola Giannini, dicendo a tutti gli effetti la sentenza non lo interdiva da questo tipo di attività, e quindi se ha vinto il concorso è giusto che ricopra il ruolo, sta alla sua coscienza. Io manderei addirittura anche mia figlia a lezione da lui, perché non ho nessun tipo di pregiudizio. Beh, su questo vorrei che questa mattina si interrogassero gli ascoltatori. Pensate che esista un livello di giudizio, che è quello che si discute nelle aule dei tribunali, che emette sentenze, e uno strascico emotivo dato comunque dal giudizio generale dell'opinione pubblica, che si forma molto sui media, sulla televisione? 800240024. Queste sono le parole di Scattone. In questo paese degli ex terroristi sono finiti addirittura in Parlamento. Altri, dopo aver espiato la loro pena, oggi tengono conferenze, scrivono libri. Eppure in tanti dicono adesso che io non posso fare l'educatore e sono pericoloso per i miei studenti. Pazienza, dice Scattone, la mia coscienza mi dice che invece potrei insegnare. Purtroppo non c'è più la giusta serenità. Queste le parole di Scattone. Vediamo adesso invece quali sono le parole della mamma Aureliana. Crediamo in assoluto, e non solo nel caso specifico, che un assassino, uno che continua a negare ogni colpevolezza appurata da 3 gradi di giudizio, non possa educare. veramente insomma posizioni opposte. 800 24 0024. Può esistere un supplemento di giudizio nei confronti di una persona che è stata già giudicata da un tribunale, o persone che non sono state giudicate da nessun tribunale perché non hanno commesso reati, che è quella, diciamo, del pubblico della televisione, quella dei lettori dei giornali, quella dell'opinione che in realtà si indigna, e l'indignazione poi naturalmente viene ripresa dai media, viene riportata negli organi di informazione e diventa uno strumento pesante che poi cambia anche il corso delle decisioni, il corso degli eventi e dei fatti. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Scusate, mi sentite con la voce un po' rotta dalla commozione, ma in realtà quando entro in questo studio, se non lo fanno disinfestare, mi prende una sorta di allergia. Evidentemente ci sono animali vacanti. Lo dico per giustificarmi, perché non è normale. Professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Innanzitutto il tuo punto di vista. Esiste questa area limacciosa fatta da, non si sa bene, il giudizio di chi, le emotività di chi, che comunque alimentata, che si autoalimenta nei media, che in realtà poi cambia anche il corso probabilmente delle sentenze, o dico qualcosa di troppo esagerato? No, direi che è esattamente così. Insomma, in una situazione come questa, uno che avesse compiuto un omicidio, che so, 100 anni fa, ma anche solo 70 anni fa, probabilmente avrebbe semplicemente cambiato regione e avrebbe potuto continuare a vivere o riprendere a vivere dove ha scontato la sua pena normalmente. È il tema tipico di tanti romanzi d'appendice. Ad esempio. O l'assassino, una volta redento, una volta espiato, cambia città, cambia personalità, diventa un uomo stimabile, e qualcuno che sa il suo segreto lo ricatta. Oggi è impossibile. Oggi è totalmente impossibile, non solo, insomma, ma effettivamente questa giustizia mediatica prende a volte delle forme veramente inquietanti, nel senso che a volte persone, comportamenti di persone vengono catturati per strada, insomma, vengono catturati casualmente, vengono esposti in rete e subiscono le conseguenze pesanti. È uscito recentemente un libro negli Stati Uniti che racconta le vicende di una serie di persone che stavano facendo delle cose scherzose, ripresi, messi in rete, queste cose sono state percepite male e hanno perso il lavoro addirittura. Quindi effettivamente le nuove tecnologie espongono tutte le persone a un giudizio che va al di là di quello che ci dà il diritto, di quello della giustizia come l'abbiamo fino ad oggi completamente, banalmente concepita. Ecco, dal punto di vista puro del diritto, Giovanni Scattone, nella sentenza che l'ha condannato non c'è scritto che lui è interdetto comunque all'insegnamento, quindi Scattone a tutti gli effetti nessuno poteva dirgli nulla. Poi capiamo la famiglia delle vittime, della vittima, capiamo l'emotività, però a tutti gli effetti il diritto dice che lui poteva tenersi quel posto di lavoro. Ma sì, indubbiamente, insomma, non c'è davvero nessun dubbio su questa cosa qui. Insomma, anche concependo la giustizia come retributiva, no? Io ti do una pena perché tu hai fatto una cosa cattiva, quindi io ti do una pena unicamente per questo, non perché ti voglio riabilitare, non perché voglio toglierti dalla società, insomma, ma semplicemente perché devi subire una stessa quantità di male rispetto a quella che ha subito qualcuno, io ho subito o ha subito qualcun altro. Ecco, anche da questo punto di vista, in Occidente ormai da qualche secolo abbiamo fatto sì che la giustizia venga amministrata da persone che non sono direttamente coinvolte, ovviamente in maniera che, essendo terzi, possano dare delle punizioni che siano razionali. In casi come questi è abbastanza inutile andare, no, dai parenti delle vittime a domandare se la punizione è giusta o sbagliata, perché è chiaro che per un parente sarà sempre sbagliata. Come si può pensare che è chiaro, no? Però noi abbiamo un'idea di giustizia che non è connessa all'emotività delle persone che hanno subito il danno, ma che è connesso, che dovrebbe essere connessa a un'idea di razionalità, insomma. E quindi in una situazione come quella di Scattone, io credo che lui abbia tutto il diritto, insomma, di riprendere la sua vita normale, giusto che sia la sentenza che gli è stata emanata, lui la pena l'ha scontata, e io credo che abbia il diritto proprio di riprendere la sua vita normale. Sentiamo i primi ascoltatori. 800 24 0024, il tema mi sembra che sia stato chiaramente definito, è qual è questa zona puramente emotiva e puramente di riflesso, creata dai media, amplificata dai cosiddetti nuovi media, anche se il termine ormai mi sembra obsoleto, per cui una persona perde il proprio diritto a essere dimenticato quando ha espiato una sua pena, e comunque sia, persone che hanno rappresentato qualcosa nelle cronache rimergono sempre, qualunque cosa faranno saranno sempre rigiudicate, anche se il tribunale ha smesso di giudicarle. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Senta, per quanto riguarda la questione di Vespa, credo che siamo veramente scivolati nel ridicolo, nell'accusa al giornalista. C'è stato uno spettacolo che è stato quel particolare funerale, Kenji era spettacolo e quindi deve poi avere dall'altra parte, nello spettacolo televisivo, l'osservazione del fenomeno. Quindi molto semplicemente Vespa ha invitato due personaggi appartenenti a quella famiglia che non sono stati certamente riqualificati dal programma televisivo, essendo Vespa è stato secondo me molto corretto nel contrastare alcune affermazioni. Poi di fronte onestamente alla particolarità della figlia non si può prendere una posizione, non voglio dire severa o seria, di fronte a un personaggio non serio. So se riesco a spiegarmi. Sì, io la vedo in maniera un po' diversa. Televisione è un grande teatro, Vespa è un grande maestro di teatro televisivo, ha fatto un'operazione che tutto sommato a lui è giovata senz'altro, perché sono già 3 giorni che non si parla altro che di lui, un'operazione che da un punto di vista giornalistico non raccontava nulla, perché i due personaggi chiaramente sono andati lì a dire quello che volevano, gli scivolava contro qualunque cosa, essendo loro incensurati, cosa volevate dirgli? Ha fatto un bel colpo che ha fatto tanto ascolto, ha fatto parlare di sé, non ha aggiunto nulla a quello che già sapevamo sui Casa Monica e non ha aggiunto nulla rispetto a quello che sapevamo sugli aspetti oscuri e sulla loro libertà comunque di agire nel territorio romano e laziale. Era stato già fatto dalla 7 con minore enfasi, visto che funzionava, lui è andato avanti riguardo su questa strada qua. Oggi gli scandalizzati sono veramente quelli che probabilmente non guardavano prima la televisione, c'è stato ben peggio. Giovanni, buongiorno. Giovanni, buongiorno. Sì. Scusi il disturbo. Di che disturbo? Allora, fa il suo mestiere, fa l'ascoltatore che interviene, suo dovere. Ecco, bravo signor Nicoletti. Allora, io non voglio fare la morale ai nostri politici, ma fin quando governano loro con questa superficialità, come si fa a far a mettere una persona a insegnare? Si mettono nei panni della persona che ha avuto la figlia uccisa. Sì, vabbè, mie figlie vanno all'università. Sì. Le mie figlie vanno all'università. Mm. Se dovrebbe succedere una cosa del genere, ma io sono dell'idea che chi sbaglia deve pagare seriamente. Ma lui ha pagato seriamente. No, scusi, dobbiamo riportare le cose. Io mi astraggo, non che mi stia simpatico, anzi, non mi sta simpatico per niente a me Scattone, ma lui ha pagato. Dal suo punto di vista, nessuno gli impediva di fare quel concorso e di coprire quella cattedra. Poi per questione di opportunità possiamo dire quello che vuole, ma in linea di principio, in linea di diritto, il funzionario del ministero che riceve la domanda di Scattone per partecipare a un concorso non può fare nulla. Che poi Scattone potesse probabilmente fare a meno di insegnare proprio a Roma, di andare proprio nella scuola dove sta la persona di cui è stato accusato d'omicidio, questo sono fatti suoi, ma evidentemente nella sua lecita presunzione di essere innocente lui dice: io non l'ho ammazzata e quindi vado avanti per la mia strada. Luigi. Ciao Gianluca, buongiorno. Qualche parola su questa questione di Scattone. Premetto che sono un avvocato civilista, quindi un po' di diritto me ne intendo. Chi diciamo critica l'intenzione di la voglia di Scattone di insegnare si rifà certamente alle regole, cioè presuppone che non lo possa fare in quanto Scattone stesso ha violato la regola di non uccidere. Permettimi, avvocato, permettimi, non ha detto non lo può fare. Valuta lui l'opportunità, se lo fa è chiaro, si becca poi la coda lunga dell'opinione che gli dice dove vai. Ti volevo richiamare che tutto il discorso si basa sul fatto che Scattone è stato riconosciuto autore di un delitto, da lì parte tutto, no? Ora, questa è applicazione delle regole. Ma anche Sofri è stato ritenuto autore comunque di un fatto criminoso e tutti i giorni scrive su Repubblica grandi pezzi, quindi mi sembra che questo in Italia sia un problema superato. Fammi fare un ragionamento che cioè volevo partire dal presupposto che si parla di regole anche quando si parla di Scattone, che ovviamente ha violato la regola di non uccidere. Si parla di regole. Ora le regole non ce le facciamo noi, no? Ma le fa la Costituzione nello Stato nostro, e che è la prima fonte primaria. Nella Costituzione c'è una concezione della pena che non è affatto retributiva come è in altri sistemi, cioè occhio per occhio, dente per dente, ma tende alla rieducazione. Questo comporta che una volta addirittura durante, ma una volta diciamo fatto tutto il percorso giudiziale e scontata la pena, un soggetto, un cittadino, ha totalmente diritto di esercitare quelle che sono le sue prerogative, le sue facoltà, e quindi di insegnare. Scusa, questa è la premessa che abbiamo fatto, noi siamo d'accordo su questo, nessuno potrà impedirgli a lui di fare questa cosa. Sì, però se noi consentiamo anche al puro livello di opinioni ancora di più ai familiari di interferire su questa facoltà di scattone. Vabbè, vorrei vedere te ammazzassero la figlia, io, se permetti, ma io sono ammazzato mia figlia, mi prendo il diritto di dire quello che voglio, poi, sono parole, entrano nel giro delle chiacchiere. Però, Ma tu non puoi dire a una persona che ha diritto che non lo ha. E questo è il punto. Io posso fare un'opinione su qual è il fatto B, il fatto C, il fatto D. La madre ha detto, la madre ha detto: sono allibita di quello che sta succedendo, ma è una ferita talmente profonda. La perplessità della madre si basa su un concetto di pena che non è nel nostro Stato, è completamente diverso. Sì, è un concetto retributivo che sta in altri sistemi. Ma quello che ha detto il tuo collega Andrea Rossetti poco fa. Andrea, esattamente lo dice l'avvocato. L'abbiamo capito questo. Sì, io intanto non sono un collega perché non sono un avvocato. No, vabbè, ti occupi di diritto, maneggiate il diritto. Sì, no, però è vero, no, che nella Costituzione c'è scritto quello insomma, che la pena è rieducativa, insomma, le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. È anche vero che c'è un problema di percezione della pena, cioè le pene devono anche essere percepite giuste sia da colui che li subisce, ma anche dalla società nel suo insieme. È chiaro che ci saranno sempre delle visioni differenti su questa cosa, soprattutto da parte di coloro che hanno subito il danno. No. Pochi giorni fa il Papa ha chiesto perdono ai valdesi di ciò che la Chiesa ha fatto contro i valdesi nei secoli passati. I valdesi gli hanno rifiutato questo perdono perché dal loro punto di vista ciò che era stato fatto era imperdonabile. Ci avete bollito con l'olio bollente, esatto, e adesso chiedete perdono. Io capisco che coloro che hanno subito il danno non possano perdonare coloro che il danno l'hanno provocato, se è così grave il danno, no? Però, come diceva giustamente l'avvocato, da qualche secolo a questa parte noi cerchiamo di fare in modo che le pene in realtà siano per prima cosa erogate da una funzione, da qualcuno che è terzo rispetto a coloro che stanno litigando, a coloro che sono implicati nella vicenda, e cerchiamo di imporre pene che siano razionali in qualche maniera. No? Allora senti Andrea, adesso ci sospendiamo un attimo che devo dare la linea alle interruzioni pubblicitarie, non so bene cosa sia, però vi faccio ascoltare una cosa, un preludio prima della seconda parte, riprenderà fra un istante. Quello che sentirete adesso è Angelo Izzo è il cattivo dei cattivi, nel 75 il mostro del Circeo, ammazzato Rosaria Lopez, torturata fino alla morte Donatella Colasanti, nel 2004 autore del massacro di Ferrazzano, ammazza madre e figlia soltanto per fare uno sfregio, poi le seppellisce, le nasconde, è andato in televisione, ha raccontato a Franca Leusini, che è la grande chirurga dei casi delittuosi, la sua storia, ridendo, sorridendo. Ancora non si sapeva che avesse ammazzato anche le altre due donne, era una cosa che non succedeva, sembrava una sorta di eroe televisivo. Poi sentiremo Franca Leusini, che ne ha maneggiate tanti di questi casi, anzi ha inventato un genere televisivo, che però stranamente non ha mai dato adito a delle proteste, nessuno ha mai detto, ma sai, non era giusto che andassero in televisione. C'è una differenza in questo? Tra poco ce lo rispondiamo. Quello del Circeo è un delitto che ha segnato un'epoca con memoria indelebile. Izzo, lei finora non ha mai affrontato pubblicamente l'orrore del Circeo. Fare i conti con un passato di cui si è duramente protagonisti è sempre una cosa difficile, però avere il coraggio di farlo è una forma di riscatto. Vogliamo provarci? Io ho difficoltà effettivamente, perché secondo me appunto il rimorso è una cosa che è un po' difficile sia da esibire certamente. La bella principessa di Leonardo a Monza. Gli scultori di D'Annunzio al Vittoriale. Il Museo della Follia a Mantova. Eventi unici di un programma unico. Expo Belle Arti Lombardia. Mostre e visite straordinarie per scoprire gli inestimabili tesori d'arte in Lombardia. Un progetto di Regione Lombardia a cura di Vittorio Sgarbi. Consulta il programma su expobellearti.regione.lombardia.it. Non cambi mai. Nuova Smart Fortwo con il nuovo cambio automatico super veloce. Proprio mai. E allora davvero non cambi mai. Nessuno più ti può fermare. Tua anche con un anno di RC Auto e assicurazione furto incendio completamente gratuiti. Solo con finanziamento Mercedes-Benz Financial. Vieni a provarla. Infosmart.com. Smart.

Vuoi vendere i tuoi prodotti negli Stati Uniti? Gen USA offre alle aziende la gamma completa di servizi per entrare nel più grande mercato del mondo. Personale specializzato in Italia e negli Stati Uniti seguirà per voi tutte le fasi dello sviluppo commerciale. Potrai avviare con successo trattative di vendita, creare una rete distributiva o avviare una tua filiale per competere con le aziende locali. Gen USA fa crescere il fatturato della tua azienda. gen-usa.com. Melog. Cronache meridiane. Un centinaio di rapine, 24 morti, 114 feriti, 7 anni di terrore, di lutti, di crimini, quelli della Uno Bianca. Killer senza volto, dall'87 al 94, terrorizzano e insanguinano le Marche e l'Emilia Romagna in un'impressionante escalation di crimini. Rapina per soldi, infatti, la banda spara sulle forze dell'ordine e sui cittadini inermi. Ma lei in aula è mai riuscito a guardare in volto le persone a cui avevate rubato volti di figli, di padri, Non è facile. Di fratelli? Ho sempre evitato gli sguardi, perché capivo cosa provavano. Se io fossi stato al loro posto e loro fossero stati in gabbia, il mio unico desiderio sarebbe stato fargli fettine, quindi comprendo perfettamente. Buongiorno Franca Leusini. Buongiorno Gianluca Nicoletti. Quanti hai intervistati te di criminali in televisione? Sai, nel mio caso la parola criminali io sono portata a escluderla, perché i miei interlocutori di storie maledette sono persone come me, come te, se me lo passi. Io mi sento criminale, dico la sincera verità. A un certo punto però cadono nel vuoto di una maledetta storia. Quindi in questo senso non criminali. Sono di persone implicate in episodi cruenti, ecco. Sempre persone che hanno ucciso in generale. Ma quanti saranno stati più? Diciamo solo di storie maledette più di un centinaio. Solo l'ultimo l'ho fatta ieri per la prossima serie che andrà in onda a fine anno, inizio l'anno prossimo. Quindi tanti. Ma ti hanno mai posto il problema, ma dare visibilità a queste persone non si fa? Nessuno te l'ha mai detto? Beh, ogni tanto così qualche voce di questo tipo così è circolata nell'aria, però devo dirti in generale no, mi hanno risparmiato da questo punto di vista, e devo dire che sono molto riconoscente veramente per il seguito grandissimo che ha la trasmissione, insomma, che mi gratifica, perché ci lavoro proprio tanto e tu lo sai, Gianluca. Ecco, la differenza è proprio questa: tu prima di accostarti a una persona ti documenti, passano mesi, studi, e ogni domanda circostanziata esattamente sui dati, sui fatti, non sulle supposizioni. Lo dico perché è un metodo, capito? Studio gli atti del processo dalla prima all'ultima parola, ne so spesso, anzi quasi sempre, più dei magistrati, più degli avvocati. D'altronde è il mio dovere, io tratto materia giudiziaria ma anche materia umana, e soprattutto tratto la materia con grande rispetto, perché io mi accoso le persone con rispetto, cioè non mi permetto di giudicare, cerco di capire, questa è la differenza. Ecco, il tuo set non è uno studio televisivo, tu quando li vai a intervistare, l'intervisto che se sono in carcere, la maggior parte dei casi, o comunque in un ambiente asettico, al di fuori diciamo della coreografia, c'è solo la tua faccia e la sua faccia e la storia. Certo. Beh, insomma, in effetti è come se fosse una dolorosa pièce di teatro, perché insomma è così. Insomma, anche se sai la confezione, chiamiamola così, storie maledette, è difficile come costruire una bistecca, dico, è come cucinare una bistecca, perché sembra semplice, però in effetti ci sono delle suggestioni che vanno salvate, insomma, perché comunque diciamo è un prodotto che diciamo è televisione, insomma, quindi. Tu hai mai avuto l'impressione che qualcuno di queste persone avesse comunque, seppur indirettamente da parte sua, l'idea che fare un'intervista in televisione gli portasse un vantaggio? Guarda, loro sanno una cosa, i miei interlocutori, se no poi insomma non si presterebbero, addirittura molto spesso mi cercano, insomma quasi sempre. Come passate per gli avvocati, passate, diciamo, si prende il contatto? L'avvocato, diciamo, sempre lo contatto, però non ha ruolo assolutamente, insomma. L'avvocato, ecco, giusto, faccio una scheggia di, per carità, doverosa di intervista all'avvocato, però in generale è un rapporto diretto. Sai, loro ne hanno indubbiamente un restauro d'immagine, questo è il vantaggio che ne hanno, cioè nel senso che sono persone che all'epoca dei fatti sono state descritte con tutti i colori della cronaca, che sai bene che tendono soprattutto così ai colori forti, all'oscuro, diciamo, al violento. Poi in effetti il momento in cui tu le avvicini, insomma, le accosti sul piano umano, vedi che sono persone completamente diverse che in nulla quasi sempre somigliano al delitto che hanno commesso. Per questo storie maledette. Diciamo, tu li cogli anche in una fase in cui stanno pagando il loro debito, certo, bene o male. Quindi certo, è una fase in cui loro stanno ripensando e scontando una pena che però allo stesso tempo ha anche il valore, diciamo, di non cancellare la colpa, di fargli pagare il debito con la giustizia. Ecco, diciamo, dei personaggi dell'ultimissime cronache, il cosiddetto, so che il termine non ti piace, mostro di Foligno oppure Scattone, tu l'hai intervistati tutti questi? Ma io ti dirò, escludo dal mio proprio, dalla rubrica dei miei interlocutori, escludo i serial killer, escludo i cosiddetti mostri, quindi tutto quello che sono pedofili. Insomma, nel caso di Scattone, ecco, che è l'argomento del giorno, se sì, vogliamo, ecco, allora anche se tu non me lo chiedi, ti dico io quello che penso, insomma, sull'appunto discussione, sul problema che è stato sollevato. Io, insomma, penso che il fine pena mai esiste, ma nel cuore delle famiglie delle vittime, quindi anzitutto va il grande rispetto va, diciamo, alle famiglie delle vittime. Però, insomma, nel caso specifico di Scattone, io anzitutto credo al recupero e alla riabilitazione, ma nel caso di Scattone c'è stata la revoca dell'interdizione dei pubblici uffici e la restituzione dei diritti civili e politici. A lui l'ha dichiarato, dice: io in effetti la sentenza dice che posso farlo, certo, nessuno certo mi impedisce di farlo, anche se la sua è stata una scelta, diciamo, per uscire dalla polemica ha rinunciato all'incarico. Ma devo dire che è stata una scelta di stile, di elegante poi sostanzialmente, però è anche una scelta forse anche di coscienza, perché indirettamente gli è stato chiesto, sì, insomma, il ministro ha detto: io ci manderei mia figlia, però questa è la sua coscienza, uno ti dice così, capisci, sì, che certo, la materia psicologia certo magari è la meno adatta a essere trattata da Scattone, però voglio dire, insomma, se noi crediamo alla riabilitazione e al recupero, e del resto è la Costituzione che ce lo racconta, voglio dire, dovremmo dare alle persone che hanno scontato la possibilità di un recupero, che è quel perdono sociale che dovrebbe essere accordato a chi comunque ha scontato, ha dato il suo contributo alla colpa e al dolore. Chi ti è rimasto più impresso dei tuoi intervistati? Izzo, forse? No, insomma, sai, dal punto di vista televisivo fu un momento di televisione indimenticabile, la faccia, sì, di Izzo era indimenticabile. Sì, ma anche la faccia, per esempio, del collezionista di anoressica, se per questo, insomma, quindi, che, diciamo, dal quale è stato tratto poi anche, sono stati tanti film, eccetera, insomma. Però devo dirti, sai, tutti i miei interlocutori, non voglio fare una classifica, insomma, perché io non scelgo mai storielle, a parte che io dico di ogni vicenda puoi fare una storiella, una storiaccia o una storia. Io cerco di fare storie maledette, appunto, però appunto indubbiamente, perché da Izzo è fra quelli, insomma, che certamente hanno segnato, perché io quando scelsi di intervistare Izzo era perché a un certo punto ho detto, stava finendo, diciamo, pare nel 98 l'ho intervistato, era lui al limite, diciamo, dell'espiazione della pena, non poi espiazione, lui avrebbe avuto l'ergastolo, però si sa che gli ergastoli, ecco, anche il fine pena mai non esiste, insomma, voglio dire, sul piano dell'ergastolo. Però sostanzialmente lui nel corso, ecco, se tu ricordi, indubbiamente con tanta gentilezza lo ricordi, lui nel corso del colloquio, non hanno parlato di interviste, del colloquio con me, ha rivelato, ecco, delle cose che peraltro hanno fatto inorridire anche gli avvocati, perché lui ha detto che quelle due povere ragazze erano state portate lì per essere uccise. Sì, cioè, sì, non in particolare è stato, fu terribile, diciamo. Sì, cioè non è stato praticamente così un'orgetta finita poi in tragedia, no, quelle ragazze dovevano essere uccise. Ma perché? Perché io so un nome che mai dirò, perché un ragazzo dei Parioli che quella sera per una circostanza non c'è stato, perché i genitori non lo fecero uscire, praticamente voleva che appunto Izzo, Ghira e Guido ammazzassero un loro cugino perché voleva ereditare lui. Quindi loro la volevano includere in quest'orgia che sarebbe finita in tragedia, per poi non essere fregati da lui il momento in cui gli avessero fatto il favore, che ampiamente retribuito chiaramente, di ammazzare una loro... Cioè dovevano incastrarlo in un omicidio, perché certo, poi una volta fatto il lavoro non poteva ricattare. Non potesse ricattare, quindi quel, insomma, fu un colpo durissimo. Tra l'altro dopo uccise altre persone, Izzo, dopo l'intervista, uccise una madre e una figlia. Sì, ma devo dirti, ti posso dire una cosa, insomma, che io... con l'esperienza che nel tempo ho, diciamo così, accumulato, difficilmente mi faccio, diciamo, ingannare, però devo dire che io veramente avevo creduto che Izzo era uscito, ecco, da questa, da, appunto, da, da quello che era veramente, ecco, la follia e soprattutto l'oscenità di quel tipo di violenza che loro, che cosiddetti fascisti, insomma, perché lui in fondo cosa ha detto? Noi del fascismo non sapevamo niente, a stento sapevamo il colore delle camicie, insomma, però eravamo soltanto dei mascalzoni e avremmo meritato la pena di morte, lui disse nell'intervista. E poi ti dirò che la cosa, io mi sono sentita tradita io addirittura, insomma, perché avevo creduto. Senti, l'ultima domanda, Franca, non ti senti un po' in colpa di essere come la settimana enigmistica, quella che vanta più tentativi di imitazione che ogni altra in televisione? Devo dirti che la cosa mi gratifica, insomma, però vedo che non esiste un duplicato di storie maledette, perché forse perché nessuno dei colleghi, diciamo, ha la tenacia e anche la pazienza di fare in effetti poche puntate. Se tu pensi che io, che sono autore unico della trasmissione, per carità, una redazione meravigliosa che fa cose senza le quali io non esisterei. Però sai che vuol dire studiarti tutti gli atti del processo, scrivere dalla prima all'ultima parola, perché tutti gli editori cortesemente mi fanno pressione perché io scriva dei libri, e come vedi non c'è nessun libro scritto da me, ma perché io faccio veramente l'autore. Beh, è più facile imbastire un paraprocesso televisivo con un po' di esperti, criminologi via dicendo, e fare chiacchiere. Ma tu vedi, in quei salotti non mi vedi mai, insomma, perché vabbè, ognuno fa il suo lavoro a modo suo. Grazie Franca Lusini, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presento Melog, cronache meridiane. Due termini mi hanno colpito che ha appena detto Franca Lusini. A parte perdono sociale, che il perdono sociale non può nemmeno essere imposto, però a seguito di una sentenza alla fine quando una persona è espiata, che ancora ci sia questa sorta di livore generalizzato da chi in fondo ogni giorno guarda, osserva il mondo e vede compiere efferatezze di ogni tipo, ma soprattutto restauro d'immagine, un passaggio in televisione, un passaggio sui giornali, un passaggio nei media non mediato in maniera severa, naturalmente certo è un restauro d'immagine. Mi scrive un ascoltatore in realtà di parere ben diverso via SMS: Nicoletti, ma che società è questa? Scattone insegna all'università, Schettino tiene conferenze, sì, forse Pacciani avrebbe dovuto fare il chirurgo. Gabriella, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, forse il mio pensiero è già stato espresso dai suoi ospiti. Comunque il discorso, cioè io sentendo queste trasmissioni il pugno nello stomaco lo sento, non tanto perché non si debba dare un'opportunità, anzi sono la prima, diamogliene due, ma è il tipo di lavoro che questo signore vuol svolgere. Ha detto che ha tinteggiato il suo corridoio, ma li tinteggi 100.000 anche a pagamento, però in una scuola pubblica secondo me non è una cosa, nei confronti anche della mamma. Poi la mamma è stata una signora molto dignitosa, e quando sento che ha scontato la sua pena 5 anni e mezzo per una ragazza di 20 anni, ecco, questo, dico, almeno non diciamo quanti ricordiamo anni, però ha che, scontato che, la sua pena. Che la sentenza parla di omicidio colposo, non è che doloso, scusate, non è che omicidio colposo, cioè non è che è stato detto l'ammazzata con l'ammazzarlo. Omicidio colposo vuol dire che non avevano l'intenzione di ammazzarla, è una cosa diversa, e però l'hanno a tutti gli effetti ammazzata. È brutto parlare in termini così crudi, perché poi riportiamo a quello che è la realtà. Ancora una volta viene chiamato in causa l'aspetto emotivo e non ci si ferma a quello che è il rigore di una sentenza. La sentenza non prescrive comunque che lui non potesse inserire insegnare. Ci fermiamo al caso Scattone, ma vorrei allargare anche la cosa all'eco che ha suscitato la discesa sui salottini nive di Porta a Porta di due rappresentanti del Can Casa Monica. Anche in questo caso richiamerei in causa quel termine che ha tirato in ballo Franca Losini poco fa, restauro d'immagine. Andrea Rossetti, che ricordo è professore di filosofia del diritto all'Università di Milano e Bicocca, lo insegna anche informatica giuridica, noi abbiamo parlato del danno che può dare l'impossibilità di un lecito oblio di quelli che possono stati anche stati aspetti problematici della propria vita, ma il restauro d'immagine comunque è un fatto che in realtà regalano i media, possono regalare i media, e bisogna anche in questo considerare che non è giusto che ci sia questa sorta di ulteriore attenuante rispetto a pene espresse o non espresse, a reati commessi o non commessi. No, indubbiamente c'è da tenere conto anche di queste cose, ma soprattutto per ritornare un po' sull'argomento, più precisamente immaginiamo una situazione diversa, ossia una situazione in cui qualcuno accusato di un omicidio, di qualche genere di grave reato, venga assolto, eppure la pubblica opinione non lo assolva. In realtà ci sono casi anche come questi, e sono casi in cui queste persone scontano a vita una pena per un reato per il quale sono stati dalla giustizia assolti. Questo è veramente incredibile, ci dobbiamo rendere conto che tutto sommato la cultura giuridica che è diffusa in un paese come il nostro è ancora davvero, davvero misera. Insomma, soprattutto ancora... diciamo per reati che riguardano, non so, la sfera sessuale, ad esempio, una persona assolta, c'è sempre qualcuno che si dà di gonzi, cioè, certo. Sì, però quello, sì, certo. è stato assolto, ma sappiamo noi cosa può aver immaginato, certo. Fatto, pensato, o anche reati contro il patrimonio, cioè quello è stato accusato di aver rubato. Per non sbagliare, meglio non fidarsi. Ma come possiamo affidare noi al cattivo senso e al chiacchiericcio che è sempre esistito nella società un grado di giudizio ulteriore che in realtà crea degli effetti nella vita, nella rispettabilità, nell'onorabilità di un essere umano? Questo è anche un po', colpa è un termine brutto, non voglio dirlo, ma effetto della ipervisibilità che ognuno di noi acquisisce ogni giorno nei media di nuova generazione, ad esempio? Indubbiamente, una riflessione che facciamo spesso con i colleghi, anche che adesso un avvocato che tratta penale, che tratta casi di omicidio, insomma, col faccia penale nero di questo genere, deve anche essere in grado di gestire molto bene i media, perché appunto l'importante è essenziale l'immagine che il suo assistito ha rispetto alle persone, ha rispetto al pubblico, non semplicemente rispetto ai giudici. Non vedo soluzione in questo momento, no? L'unica soluzione è, come spesso diciamo, quella di una crescita culturale di noi tutti, insomma, di noi come popolo, di noi come persone, ma la vedo ancora veramente dura, no? Perché questi principi furono enunciati più o meno, insomma, nel Settecento, all'epoca dell'illuminismo, eppure ancora oggi siamo qui a pensare la pena come una vendetta, perché fondamentalmente questo, no? La pena come vendetta privata. Ma io questa mattina per una ricerca che sto facendo ho scorso delle immagini di esecuzioni capitali, ad esempio l'esecuzione di Cesare Battisti. Episodio lontano, il boia rideva dopo averlo impiccato, intorno tutta una serie di figure che hanno assistito all'impiccagione, a un no, a torto, a ragione, non voglio entrare in merito, sorridevano e si mettevano in posa. C'è sempre stata questa sorta di anima tricotese nell'essere umano. Leonardo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di avermi richiamato. Cesare Battisti mi veniva da ridere, mi ero perso qualcosa. Poi no, Battisti, quello ancora, diciamo, il martire di Trento italiana, non parliamo di quello di seconda generazione che se ne sta in Brasile a ballare l'amico Charlie Brown, non è quello. No, appunto, dice, mi ero perso qualcosa. Allora, molto sinteticamente, a mio parere si sta perdendo di vista il concetto base del fatto di Scattone, che non si è pentito. C'è stato ma lui dice non mi pento perché non l'ho ammazzata, l'ha detto, dice non mi posso pentire, non l'ho ammazzata. Beh, del resto la sentenza parla di un omicidio colposo. Lo so, lui dice accetto la sentenza, non sono stato io. Ho capito, allora se la sentenza deve essere base di ogni ulteriore ragionamento, quindi sociale, politico, ma soprattutto giuridico, la sentenza deve essere presa di riferimento, parla di omicidio colposo. Io ho un personaggio che non si è pentito. Quando io faccio qualcosa di colposo, quindi non lo volevo fare, ma è venuto fuori un fatto di rilevanza penale, io la prima cosa che faccio è proprio lì che io... qui concludiamo onestamente, non voglio prendere parte per nessuno, essere accusato di un omicidio non è proprio esattamente... è difficile entrarci se uno non passa per l'idea che per il mondo comunque sei un assassino. E lui, a modo suo, dice quello che... è lecito che dica, io non sono stato e quindi non mi pento. A domani!